Ad alta voce, Enzo Turrin legge Jacob von Gunten di Robert Walser, traduzione di Emilio Castellani. Ottava puntata. Dietro la casa si stende un vecchio giardino abbandonato. Quando la mattina guardo giù dalla finestra dell'ufficio, una mattina sì e una no, lo devo riordinare assieme a Kraus, mi rattristo al vederlo così negletto e ogni volta mi verrebbe voglia di scendere a riordinarlo. Sentimentalismi, si sa. Al diavolo queste smancerie buone solo a disorientare. Nel nostro istituto Beniamenta vi sono ben altri giardini. Andare nel giardino vero ci è proibito. Nessun alunno può entrarvi, perché poi, di preciso, non lo so. Ma come dicevo, abbiamo un altro giardino che forse è più bello di quello reale. Nel nostro libro di testo, Quale meta si propone la scuola di ragazzi, è scritto, a pagina 8, la buona condotta è un giardino in fiore. E in questo giardino, il giardino dello spirito e dei sentimenti, noi allievi possiamo scorazzare a volontà. Niente male. Se uno di noi si conduce in malo modo, è come se camminasse da sé in un brutto inferno buio. Se invece si comporta bene, per compenso passeggia automaticamente tra una verzura ombrosa dove sfavilla il sole. Com'è seducente! E secondo il mio povero e fanciullesco modo di vedere, c'è del vero in quella gentile massima. Una condotta sciocca non può essere causa che di vergogna e di collera, e questo è il doloroso inferno che fa sudare il colpevole. Chi invece è stato attento e ha dimostrato docilità sente che qualcosa di invisibile lo prende per mano, qualcosa di familiare come un buon genio, ed ecco il giardino, il lieto incontro dove si aggira senza volerlo tra amiche piante verdeggianti. Se un allievo dell'Istituto Beniamenta riesce a essere soddisfatto di sé, ciò che avviene di rado, poiché siamo subissati da una grandinata, una tormenta, un diluvio, un rovescio di precetti, tutto profuma intorno a lui e non è altro che il profumo dell'elogio modesto ma alacremente conquistato. Se la signorina Beniamenta ci loda, si diffonde un profumo. Se sgrida, l'aula si abbuia. Che strano mondo la nostra scuola. Quando uno scolaro si è mostrato saggio e costumato, è come se tutto a un tratto sopra il suo capo si inarcasse qualcosa, l'azzurro impareggiabile cielo sopra il sognato giardino. Se noi allievi siamo stati pazienti, se abbiamo dato prova di fermezza nel sopportare da bravi lo sforzo, se siamo riusciti a praticare ciò che si chiama attesa e perseveranza, improvvisamente luccica come un folgorio d'oro davanti ai nostri occhi un po' affaticati, e noi sappiamo che è il sole del paradiso. A colui che sinceramente a buon diritto si sente stanco, il sole risplende. E se non ci è toccato di coglierci in fallo di qualche desiderio impuro, cosa che ci addolora sempre tanto, ecco giungere al nostro orecchio che mai, ma è un canto d'uccelli. Sì, sono loro, i felici piccoli cantori dalle ali variopinte che allietano il nostro giardino. Sono stati loro a cantare, a fare tutto quel grazioso subbuglio. Ora, diciamolo francamente, di quali altri giardini avremmo bisogno, noi allievi dell'Istituto Beniamenta, all'infuori di quelli che noi stessi ci procuriamo? Purché ci comportiamo con decoro e con gentilezza, siamo ricchi signori. Quando, per esempio, mi viene il desiderio di possedere denaro, e mi accade anche troppo spesso, precipito nelle fonde voragini di una straziante, furiosa cupidigia e, oh, come soffro e spasimo e perdo ogni speranza di salvezza. E se allora guardo Kraus, mi invade un senso di benessere profondo, meraviglioso, carezzevole come un mormorio di sorgente. È la tranquilla sorgente della modestia, sussurrante su e giù nel nostro giardino. E allora sono tanto felice, tanto ben disposto, tanto invogliato al bene. Ah, e non dovrei amare Kraus? Se uno di noi fosse, o meglio fosse stato, un eroe, che avesse compiuto qualche impresa coraggiosa ponendo a rischio la vita, sarebbe autorizzato, così è scritto nel nostro libro, a entrare nel portico di marmo adorno di affreschi che giace nascosto tra il verde del nostro giardino. E là una bocca lo bacerebbe. Quale bocca, questo il libro non lo dice, e comunque noi non siamo degli eroi. A che scopo dell'arresto? Prima di tutto non abbiamo occasione di comportarci in maniera eroica, e in secondo luogo non so davvero se per esempio Scilinski o Pietrone sarebbero tipi capaci di sacrificarsi. Anche senza baci, né eroi né colonnati, il nostro giardino è, a mio avviso, una graziosa istituzione. Quando parlo di eroi mi viene freddo. Allora è meglio che stia zitto. Giorni fa ho chiesto a Kraus se anche a lui non capiti, ogni tanto, di risentire qualcosa di simile alla noia. Mi ha guardato con aria di netta riprovazione, ha riflettuto un poco e poi ha detto: «Noia? Non mi sembri molto sveglio, Jacob». «E lascia che ti dica che fai delle domande non solo ingenue, ma anche scandalose. Chi può annoiarsi al mondo? Tu, forse? Io no, te lo assicuro. Vedi? Sto studiando il libro a memoria. Ebbene, ho forse tempo di annoiarmi? Che domande idiote. Gli aristocratici si annoiano, forse. Kraus no. E tu ti annoi, altrimenti non ti passerebbe per capo quest'idea e non verresti a pormi una simile domanda. Una certa attività la si può avere sempre, rivolta, se non all'esterno, almeno all'interno. Si può borbottare, Jacob, e di sicuro hai già avuto voglia parecchie volte di borbotto. Ma dimmi, lo sai che cosa borbotto? Parole, caro Jacob. Io borbotto e ripeto sempre delle parole, e questo mi fa bene, credimi. Girami al largo con la tua noia. La noia la provano quelli che stanno sempre in attesa di qualcosa che venga dall'esterno a stimolarli. Dove c'è cattivo umore, dove si fantastica a vuoto, lì c'è la noia. Vattene, non seccarmi, lasciami studiare, trovati un'occupazione qualunque. Affaticati in qualche modo e vedrai che non ti annoi più. E ti prego, evita per l'avvenire queste domande che sconcertano. Queste domande sciocche, sciocchissime. Io gli chiesi: «Hai finito, Kraus?» e scoppiai a ridere, ma lui mi degnò solo di un'occhiata compassionevole. No, Kraus non può mai, assolutamente mai, annoiarsi. Lo sapevo già a sufficienza, solo ho voluto ancora una volta punzecchiarlo. Non è stato bello da parte mia, proprio un'azione priva di senso. Decisamente devo correggermi. Niente di peggio che questo volermi sempre burlare di Kraus per farlo andare in collera. Ma ci trovo un tal gusto. I suoi rimproveri hanno un che di allegro. Le sue prediche fanno talmente pensare al patriarca Abramo. Che terribile sogno ho fatto qualche giorno fa. Ero diventato un uomo tremendamente cattivo. Per quale ragione poi non riuscivo a spiegarmelo. Dalla radice dei capelli alla punta dei piedi ero una specie di bruto, un pezzo di carne umana infagottato, goffo, feroce. Ero grasso e a quanto pareva tutto mi andava a gonfie vele. Anelli luccicavano alle dita delle mie mani informi. Avevo un pancione da cui penzolava sciattamente mezzo quintale di tronfia albagia. Sapevo per certo che potevo comandare e dar la stura ai miei capricci. Accanto a me, su una tavola riccamente imbandita, erano in mostra gli oggetti di un'insaziabile voracità e arsura: bottiglie di vino, di liquori, vivande fredde tra le più prelibate. Non avevo che da stendere la mano, e infatti la stendevo di quando in quando. Sui coltelli e sulle forchette erano rapprese le lacrime di nemici giustiziati, e il tintinnare dei bicchieri si accompagnava ai singhiozzi di molti poveretti. Ma le tracce di lacrime non mi muovevano che al riso, e i singhiozzi disperati mi facevano l'effetto di una musica. Mi era necessaria una musica conviviale e l'avevo. Apparentemente ero riuscito a fare eccellenti affari a spese del benessere altrui e ciò mi rallegrava fin nel profondo delle viscere. Oh, come gioivo al pensiero di aver fatto mancare il terreno sotto i piedi a qualcuno dei miei simili. E io afferrai un campanello e suonai. Entrò un vecchio. Scusate, volevo dire, strisciò dentro un vecchio. Era la saggezza della vita e si avvicinò Carponi ai miei stivali per baciarli. E io permisi a quell'essere avvilito una tale azione. Pensate, questo principio nobile ed egregio fra tutti, l'esperienza, veniva a leccarmi i piedi. È questo che io chiamo ricchezza. E poiché così mi piaceva, suonai di nuovo, spinto da non so più qual prurito di maliziosi diversivi, ed ecco apparire una tenera fanciulletta, un vero bocconcino per uno scostumato della mia fatta. Candore infantile, tale era il suo nome. Sogguardando furtivamente la frusta posata accanto a me, cominciò a darmi dei baci che mi ringalluzzivano in misura incredibile. Paura e precoce depravazione trasparivano dai suoi begli occhi di cerbiatta. Quando ne ebbi abbastanza, suonai di nuovo e comparve un bel giovanotto snello ma povero, la serietà della vita. Era uno dei miei lacchè. Aggrottando la fronte, gli ordinai di farmi entrare quel coso, come diavolo si chiamava, ma sì, la voglia di lavorare. Di lì a poco entrò lo zelo e io mi presi il gusto di assestare a quell'uomo integro, a quel lavoratore dalla magnifica corporatura, una frustata schioccante nel bel mezzo del viso in placida attesa e giù a ridere a crepapelle, e lui, il fervotanica energia creatrice, lo sopportava di buon grado. Poi, invece, con un pigro cenno di magnanimità, lo convitai a un bicchier di vino e quel povero idiota tracannò il nappo della vergogna. «Va, datti da fare per me», gli dissi, e lui se ne andò. Entrò allora piangendo la virtù, in sembiante femmineo di tale bellezza da sopraffare qualsiasi cuore non del tutto raggelato. Me la presi sulle ginocchia e mi buttai a fare follie con lei. Dopo che l'ebbi depredata del suo tesoro ineffabile, l'ideale, la scacciai con scherno ed ecco a un mio fischio apparire Dio in persona. «Come? Anche tu?» gridai e mi destai grondante sudore, ma come ero felice che si trattasse solo di un brutto sogno, Dio mio! Ancora posso sperare di diventare un giorno qualcosa. Ma davvero, nel sogno tutto sfiora il limite della follia. Che occhi farebbe Kraus se glielo raccontassi? Il nostro modo di rendere onore alla signorina Beniamenta è certamente comico. Io però, per esempio, sono molto favorevole al comico, lo trovo ricco di indubbio fascino. Le lezioni hanno inizio sempre alle 8 e 10 minuti prima noi allievi siamo già seduti ai nostri posti, carichi di tensione e di attesa, fissando immobili la porta dalla quale deve apparire la nostra insegnante. Anche per questa specie di attestazione preventiva di rispetto seguiamo precetti specifici. Vale come legge che dobbiamo origliare per accertarci se stia arrivando colei che prima o poi sicuramente entrerà. Per 10 minuti dobbiamo essere pronti da veri piccoli scimuniti ad alzarci dai banchi. Una leggera degradazione è implicita in tutte codeste minute esigenze che sono indubbiamente ridicole. Ma per noi non deve contar nulla la nostra onorabilità personale, bensì solo quella dell'Istituto Beniamenta. E probabilmente si tratta di un principio giustissimo, giacché si può dire che lo scolaro abbia un onore? Nemmeno per idea. Starcene sotto tutela ed essere tartassati a dovere, in questo consiste tutt'al più il nostro onore. Onorevole per degli alunni è essere ben addestrati, chiaro, perfettamente chiaro, e neppure c'è caso che ci ribelliamo, non ci passerebbe nemmeno per la testa. Di pensieri fra tutti ne abbiamo ben pochi. Io forse sono quello che ne ha di più, può darsi benissimo, ma tutto il mio patrimonio pensatorio lo trovo in fondo spregevole. Ho rispetto solo per le esperienze e queste, di regola, sono perfettamente indipendenti da ogni pensiero, da ogni confronto. Così, per esempio, apprezzo il modo in cui apro una porta. È un'azione che contiene più vita riposta di qualsiasi domanda. Certo, tutto spinge a porre domande, a fare confronti, a ricordare, e non c'è dubbio che si debba anche pensare, e molto. Ma conformarsi è più elegante, assai più elegante che non il pensare. Chi pensa si impenna. E questo è sempre brutto, è pregiudizievole alle cose. Sapessero solo quante cose corrompono i pensatori. Uno che si applica a non pensare fa qualche cosa. Ebbene, proprio quella cosa è più necessaria. Ci sono al mondo decine di migliaia di teste che lavorano senza costrutto. È chiaro, chiaro come il sole. Le stirpi umane perdono il coraggio vitale a furia di disquisire, di comprendere, di sapere. Per esempio, quando un allievo dell'Istituto Beniamenta non sa di fare il suo dovere, è allora che lo fa. Mettiamo invece che lo sappia, in quel caso tutta la sua grazia e la sua bravura spariscono e commette un qualunque errore. Mi piace scendere di corsa le scale. Quante chiacchiere! È una bella cosa possedere un certo grado di agiatezza e aver messo un po' d'ordine nelle proprie relazioni mondane. Sono stato a casa di mio fratello Johann e, devo dirlo, ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. L'arredamento è nel vecchio stile von Gunten. Già il vedere il pavimento tutto coperto e nascosto da un soffice tappeto color azzurro pallido mi ha fatto una straordinaria impressione. In tutte le stanze regna il buon gusto, non già un gusto vistoso, ma una scelta precisa, elegante. I mobili sono distribuiti armoniosamente, talché fin da quando si entra sembra che ci accolga un saluto cortese e affabile. Specchi sono appesi alle pareti. Ce n'è anche uno grandissimo che va dal pavimento al soffitto. I vari oggetti sono vecchi e insieme no, eleganti e insieme no, ricchi e insieme no. Nelle stanze c'è calore e accuratezza, lo si avverte e fa piacere avvertirlo. Una volontà libera e attenta ha appeso quegli specchi, ha destinato il posto per il canapè leggiadramente centinato. Non sarei un von Gunten se non mi accorgessi di tutto ciò. Ogni cosa è pulita, spolverata con cura, senza tuttavia essere lucida. Tutto guarda calmo e gaio al visitatore. Nulla tenta di trafiggergli la vista. È la coerenza dell'insieme che esprime da sé una quantità di significati affettuosi. Su una poltrona di velluto rosso scuro era sdraiato un bel gatto nero. Sembrava il morbido, nereggiante benessere in gualdrappato di rosso. Delizioso. Se fossi pittore vorrei dipingere la beatitudine di quell'immagine animalesca. Mio fratello mi venne incontro con grande cordialità e restammo in piedi l'uno di fronte all'altro come cerimoniosi uomini di mondo, esperti del diletto che può nascere dall'urbanità dei modi. Mentre chiacchieravamo, un grosso cane snello, bianco come la neve, si avventò su di noi con graziosi balzi esprimenti gioia. Io naturalmente lo accarezzai. Tutto è bello nella casa di Johann. Ogni oggetto, ogni pezzo è stato scovato con amore nelle botteghe di antiquari fino a radunare quanto si può avere di più comodo e di più squisito. Egli ha saputo con la semplicità creare, entro limiti modesti, qualcosa di perfetto, di modo che in casa sua l'acconcio e l'utile si fondono col bello e con l'aggraziato, quasi a formare una pittura d'ambiente. Di lì a poco, mentre ce ne stavamo seduti, comparve una giovane donna e Johan mi presentò a lei. Più tardi si beve il tè e ci fu molta allegria. Il gatto miagolava chiedendo latte e il bellissimo cane voleva mangiare qualcuno dei biscotti posati sul tavolino da tè. Tutte e due le bestie ebbero alla fine ciò che desideravano. Venne sera e io dovetti tornare a casa. Qui al nostro istituto si impara a risentire e a sopportare una perdita, e ciò costituisce, secondo me, una facoltà, un esercizio in mancanza di cui l'uomo, per quanto insigne sia, rimarrà sempre un grande fanciullo, una sorta di bambinone piagnucoloso. Noi allievi non speriamo nulla, anzi, ci è severamente vietato nutrire nel nostro intimo alcuna speranza per l'avvenire, e non di meno siamo perfettamente tranquilli e sereni. Com'è possibile questo? Forse che sopra le impeccabili pettinature delle nostre teste sentiamo aleggiare qualcosa di simile agli angeli custodi? Non saprei dirlo. Può darsi che solo a causa della nostra limitatezza ci sentiamo così gaii e spensierati. Perché no? Ma questa serenità, questa freschezza di cuore è forse perciò meno degna? O non siamo che degli stupidi? Vibriamo, ecco. Consciamente o inconsciamente prestiamo un po' d'attenzione a una quantità d'oggetti. Siamo un po' dappertutto con lo spirito e scagliamo le nostre sensazioni a tutti i venti, mietendo esperienze e osservazioni. Molte cose riescono a consolarci perché in generale siamo gente assai smaniosa di ricerca e perché facciamo poco conto di noi stessi. Chi presume molto di sé è sempre esposto allo scoraggiamento, alle umiliazioni, perché sempre l'uomo che ha coscienza di sé si scontra con qualcosa di ostile alla coscienza. E tuttavia non si può affatto dire di noi allievi che siamo privi di dignità, ma si tratta di una piccola dignità estremamente manovrabile, pieghevole, duttile, tanto è vero che l'indossiamo e la smettiamo a seconda dei casi. Siamo prodotti di una civiltà superiore oppure siamo figli di natura? Anche a questo non saprei dare risposta. Una cosa sola so di preciso. Noi aspettiamo. Questo è il nostro valore. Sì, aspettiamo e nello stesso tempo tendiamo l'orecchio verso la vita, verso quella pianura che si chiama mondo, verso il mare con le sue tempeste. Ah, Fuchs poi se n'è andato, ne ho molto piacere. Non sapevo cosa farmene di quello lì.